Hola, hola. Attento, Claudio. Arrivo subito, un secondo. Ehi. Aspetti un secondo, sono al telefono, gli arrivo subito. Ehi, anche io, anche lì no. Richiamo. Aspetti, che sono sempre al telefono. Claudio. Sono al telefono, ti aspetto un attimo. Va bene. Attento, Ronaldo. Ciao Giulio. Ciao, sì. Ciao, fa. Come va? Come va questo microfono, Giulio? Tu cazzo, ho sentito meglio quando mi hai salutato per primo. Adesso, riprova, Questo ciao Giulio e basta. Appunto. Sentendolo così va bene. Fai un passaggio lungo, va bene. Sto usando un altro tipo di microfono con il Lincoln, sono il preso del Lincoln per vedere se almeno questo va meglio. Diciamo che è buono, non è buonissimo, però già è buono. È un po' nasino, ma niente di particolare. Un attimo, ok. Oh, guarda adesso, si è migliorato. Già non l'avevo preso, adesso sì, adesso va benissimo. Ha migliorato, così. Non ho fatto niente di che. Ma è molto, molto migliore. Poc'anzi era nasino, adesso no, adesso è bello, chiaro. Corposo è bello. Ma può essere perché ho... sarà perché ho le mani in pasta, come si dice. Ho le mani... sto facendo massa io, dai. Può essere, certo, può anche essere, certamente. Tutto è possibile. Lo sai, l'elettronica è un settore molto, molto strano, per non dire stravagante nel complesso. Per cui tutto è possibile. Cos'è che hai aperto? Cosa stai usando? Un più 5, però ho fatto una modifica. Del più 5 non lo so, la modifica dov'è, del più 4 io lo so dove si fa, ma del più 5 non lo so, a meno che non sono uguali, questo non, ma suppongo che sia questa cosa, perché cosa si è riferita, perché sai tu il 5, il 4 so benissimo dove si fa il ponte per poter avere una modulazione più forte, parlo del microfono. Ho capito. È rimasta tale quale ora? Adesso è leggermente, ma questo invisibile è più bassa, però più, ancora più chiara, più custodiata, dai. Aspetta, Vabbè. Oh. È ancora, non è tanto chiara, dai. Chiarissima, non è chiara, chiarissima, so che... Ma stai regolando i film, stai regolando? No, stavo facendo la prova della massa, guarda adesso, dimmi se cambia, se lo prendo in mano, così giusto per farti capire, ecco qua, non lo mai che lo avvicino appena più a 20 cm dalla bocca, e mi dice se cambia qualche cosa, così è il primo passaggio, adesso lo rimetto a posto, e così è, diciamo, secondo passaggio, sempre la solita distanza, però senza massa microfonale. Ho capito, non cambia niente, ma se è una questione di massa, non sai cosa puoi fare. Dentro il filo del microfono ci fili un pezzo di filo elettrico a un capo, no, a un unipolare. Lo attacchi alla massa del microfono, anche sotto, sviluppi una vite, e poi la fai, riesci a fare contatto con lo filotto del baracchino, o direttamente al baracchino, se no, solo che il microfono da molto lo puoi staccare, mentre invece se il baracchino ha la massa da poter prendere, va bene, e allora elimineresti anche il problema massa, così non c'è bisogno di farlo tu. Ho capito, va bene. Adesso ti faccio sentire un altro microfono, non ti dico cos'è, mi devi dire solo se va bene o meno, poi ti dico il tutto. Va bene, prova. Io l'avevo attaccato al tram, che è passato lì vicino, mi ha fermato il microfono con un cavo. Il microfono se lo mette a massa col baracchino, secondo cos'è, se è quello, perché dice se vedo in mano lui fa massa e va meglio, no? Si può fare anche quello, anche perché mettendo dentro la spirale del cavo del microfono non vedi niente, il male interno, perché non vedi niente. Questo è l'altro microfono, eh? MB5, ecco. Questo è più forte, molto più forte questo. Quindi è migliore questa come modulazione? Per me sì, per me è migliore questa. No, non è il più 5, Antonio. Adesso ne metto un altro ancora. E poi tenete presente la modulazione, così almeno valutate, vedete un pochino qual è migliore secondo voi, eh? Ok, lo cambio. Per me questo è migliore di quello prima, Antonello. Sì. Quello che mi è sembrato del MP5 è molto migliore, dell'altro che c'aveva prima. L'altro andava in saturazione un po'. Si sentiva che era caricato. Ecco, questo è l'altro ancora. La modulazione dovete dire una volta qual è migliore. Poi dico qual è il primo, il secondo e il terzo. Questo è una fagosa, è una fagubba questo, c'è questo non toccando più. A me mi piace mettere l'altro che c'era prima, meglio di questo secondo me. Questo ha i toni più alti e dunque più fino secondo me. Poi l'altro secondo me era migliore. Va bene. Allora, sono riuscito a fare questo più 5, il secondo passaggio che ho fatto era il più 4, mentre invece il primo era l'MC60, quello che mi state dicendo che è un pochino saturo. Il più 4 per me era migliore, cioè il secondo, con la radio più corposa, più macula, mentre invece questa ha dei toni più alti. Forse se lo abbassi di volume, può darsi che cambia, non lo so, però come passaggio a me mi piace più il secondo, non questo terzo. Sì Giulio, tanto me la sto giocando con il più 4 e un altro più 5 che devo far vedere perché ho il connettore a 5 e non a 4. No, volevo provare l'MX60, per dirti la verità, siccome non mi sono buttato giù perché l'MC43 funzionava e invece il più 5, il 60 no, volevo sapere il perché e mi sono messo a verificare due cose e sono riuscito a far andare anche a quello, dai. Quindi l'MC60 non va bene con Lincoln, diciamo, dai. Non so cosa, per me ripeto, quello che hai fatto passaggio col secondo bambino, questo io lo sento addirittura, non so se è il respiro che si sente o gracchia un tantino, non riesco a capire cosa può essere, è forte, è fortissimo, e forse per quello, forse è troppo sensibile, non lo so, io ripeto ancora una volta, a me mi si è tutto di più il secondo. Cappa, va bene, questo è più 4. Sì, sicuramente è un pochino più amplificato perché gli ho lasciato sia il volume che i tuni, adatto all'altro apparato che praticamente non lo sapevo quasi mai, però era giusto una prova. Quindi, richiudo il 60 e era giusto una prova per vedere se è andato o meno. Sì, e beh certo, andare va sempre, tutti vanno bene, qualsiasi microfono che ci metti basta farlo notare e va sempre bene, anche quelli che vengono dai senegalesi per le strade, quelli che servono per cantare, anche quelli, io avevo adattato anche uno di quelli, si può immaginare, e uscivano discretamente, solo che non erano amplificati, ovvio, però come modulazione era abbastanza chiara, fortissima. Poi ne ho 4-5 mi servono di quei microfoni io, anche ne ho uno addirittura professionale proprio per cantare, no? E quello è di mia figlia, per cui va benissimo, è una bomba come modulazione, come timbre, si può immaginare, non è amplificato, però è una radio abbastanza alta e va benissimo. Per dirti, qualsiasi microfono si può adattare, non è un problema quello. Si tratta solo di trovare i collegamenti esatti, giusti. Ecco, questo invece è il 60. È il 60 che, non lo so, un po' l'ho detto che va un po' in saturazione. questo è più basso, come modulazione, questo qui è più basso, deve, a meno che prova a cambiare la differenza. Cambia la differenza del microfono del 70, vediamo come cosa succede. Ah no, penso che si abbassi, guarda. Ecco, cambiata. Ho cambiata, 1, 2, 3, questo è il primo passaggio. Questo è il secondo passaggio, penso che sia più alta quindi, Sì, questa è più alta, sì, è vero. Si abbassa. Adesso com'è? 50 adesso? Sì, sì. Sì, va meglio, va meglio. Però è chiarissimo, Questo è fuori funzione, è chiarissimo, è più bassa ma è chiarissimo. Ecco, ma vabbè. Stavo provando anche il tartino di sotto, quello in mezzo e alto, diciamo. Vabbè. Era giusto una prova che volevo fare, adesso lo richiudo. E per conferma, dai, mettiamo il più 4. Sì, a me personalmente piace il più 4. Dico una cosa, ma hai dovuto mettere nel 60, hai dovuto mettere la batteria interna? Eh sì, per forza, questo l'apparato non lo alimenta. Appunto, dunque va benissimo, sì sì. E quello, il 60, quando lo mette sulla HF, allora c'è un altro discorso, anche perché c'è il processore, c'è un'altra radio, un'altra radio, insomma, è tutto diverso. E diventa molto, ma molto più bello, Su un barattino funziona ugualmente, ripeto. È abbastanza chiara, comprensibilissima. E poi non è così bassissima, sia ben chiaro. Però non è come il BMW 4, il BMW 4 ha un'altra spinta. Ecco, no, era una prova, Giulio, che ormai mi era entrata nell'orecchio e volevo verificare un pochino. Comunque, anche il 60 siamo riusciti a farlo funzionare. Sì, ma io avevo adattato anche le BMW 4, l'avevo adattato a 440, puoi immaginare, addirittura con una prolunga abbastanza lunga, roba di 1,5 metri, perché il filo non l'ho voluto tagliare, eppure funziona bene ugualmente, problemi non ce ne sono. Però se sa, per l'HF il 60 è tutta un'altra musica, e poi sarebbe un sacrilegio utilizzare il microfono del baracchino nella radio professionale, per carità. Vabbè, si fanno certi esperimenti anche per fare esperienza, eccetera, ma va bene. Vediamo cosa dice Antonello. Antonello ha visto. Oh, caduto Antonello. No, vabbè, era una cosa mia personale, perché guarda Giulio, adesso ultimamente ho tutti i wattmeter, ci si va in saturazione, perché ho fatto anche la regolazione ieri dei wattmeter, guarda un po'. Adesso che sì, adesso provo a aumentare, a vedere, però il bias non deve andare, solo deve mandare in saturazione, perché se gli mandi più corrente al finale è logico che è satura. Bisogna trovare un compromesso. Io penso che se hai il drosmetro, un wattmetro discreto, intorno ai massimo, ma poi per esagerandomi, 9 watt, 8 o 9 watt. L'ideale sarebbe anche 8. No, allora, adesso sono tutto con i watt aperti, diciamo, dai, ma parlo delle watt esterni, sono in desaturazione. No, non sei andato in saturazione, però incomincia a essere più troppo corposa la radio, però è bellissimo lo stesso, non va benissimo. A chi piace così va bene. Ah, quindi tu mi dici che devo abbassare. Secondo me sì, tu metti, se metti solo 2 watt metti a 8 watt, guarda, non sbagli, perché il bias è come qui, però porta la corrente, porta, se tu gli dai più corrente ai finali è chiaro che va in saturazione, questo è ovvio, invece col tanto gli devi dare e basta, anche per evitare conseguenze a lungo andare, no? E dunque sono sicurissimo che se tu gli dai 8 watt, ma proprio esagerandomi, se vuoi, che poi non cambia molto agli effetti del segnale, 8 volt siamo lì, metti la 8 watt, dammi vedere, guarda che è una radio meravigliosa. Ecco, adesso sono diciamo 6 watt con 8 modulati. Sì, no, ma puoi mettere addirittura 8 di voltante, modulati e poi quello che tira. Poi va bene, okay. Comunque è bellissimo anche così, no, non ci sono problemi, ma se vuoi ottenere qualche punto adesso in più, no, voglio dire, quel watt. Mentre fino a 8 ci puoi arrivare, sono sicurissimo che la radio non subisce nessuna inclinazione. Aspetta. Ora, oh, ecco qua. 8 modulati va a 10, guarda, ora 1, 2, 3. Lascialo così, Tino, lascialo così che è una della vita. Va benissimo, guarda, è perfetto. E non perdi poi tanto in segnale, in punto S. Per cui va benissimo, lasciatelo a 8 e chi lo vuole ascoltare lo ascolta così, se non lo vuole ascoltare che si va via le orecchie. Che dimmelo, questo l'ho detto io, perché così va benissimo. Sì, va bene, io lo lascio, cioè non ho, dall'interno non sto toccando niente, l'ho fatto ieri e ho chiuso e era giusto per vedere dall'esterno come potevo agire. Va bene, comunque lascio così. Sì, per me va benissimo così. Io ti sto ascoltando con la KS, dunque per me va benissimo, non bene, ma benissimo veramente, un'ottima, è la tua, insomma, quella che hai avuto sempre, che hai sempre avuto una bellissima radio, per cui problemi come ti do. Sì, addirittura a livello di come radio, a livello dell'HF, non di baracchino, dell'HF sì. Va bene, giù, mi devi perdonare, ma mi devo spostare, che devo fare questo un attimino, devo prendere anche un po' di legna, quindi dopo se coincide dentro. Ah, ti ringrazio per il controllo. Di niente, sì, non ci mancherebbe. Ah, buona, attendi pure, dai, sono qua, senza qualcuno, si chiacchiera, se ho pazienza, tanto nel frattempo guardo la televisione. Vabbè, tanto c'è quelle due orecchie di maialino di Antonio Lorizio che non ne voglio entrare adesso, ma già c'è. Va bene, a dopo, se coincide, d'accordo, alle prossime. Andare, sì. Va bene, a dopo, ciao. Ciao, ciao, sì, ciao. Ecco, vieni. Ronaldo, va bene. Come va? Bene, ho il telefono. Anzi, un'ora, vero. Va bene, vai. Ma cosa siete facendo? Niente, sono solo, Quintino stava facendo delle regolazioni, io gli ho detto di mettere a 8, mi dico prende di più 4 con quella radio che stavo usando, perché per me è a livello quasi a livello del 440, per cui per me va benissimo così. Io gli ho detto metti 8 watt di uscita massimo, però andava bene anche a 6. È automatico, per me è una radio bellissima, ma a me piace così. Sì, gli abbiamo fatto anche ieri le prove, va benissimo alla grande. Chiaramente io gli ho detto, se poi devi abbassare un pelino per i tuoi vicini, lo abbassi, però per me che sono allontanato va bene così. Sì, no, anche perché se tu non lo levi troppo alto, mandi troppa corrente in aria, allora può andare in saturazione. Intanto metterlo a 8, metterlo a 10 watt, ad esempio, la radio, il baracchino, non è che ti cambia molto come punto S, è un'inerzia proprio, per cui perché devi rischiare la qualità della radio per avere che so io magari mezzo punto S in più, non avrebbe senso secondo me, Claudio. Cappa, gliel'ho detto anche ieri, non ti cambia la vita, abbiamo fatto le prove, non sale assolutamente niente, da 8 a 10, da 8 a 12 non cambia niente. Però cambia la qualità della radio, quindi se lo tieni anche a 7 watt, la qualità della radio è più buona, punti S non si vedono, va bene. Appunto, per cui poi 27 è quello, e gli altri ho fatto anche una battuta un po' avanzata, ho detto, se qualcuno lo ripete che se l'abbia le orecchie, ho detto, ma questa è solo una battuta, non è che non era offesa per nessuno, ci mancherebbe altro. Però secondo me, come l'avevo fatto, va benissimo, premesso che andava bene anche quando mi ha fatto sentire se il VAR, andava benissimo ugualmente, ma se proprio non vuoi prendere tanto in punto S, lascialo 8 che è eccezionale ugualmente, anzi va benissimo, meglio di così, ripeto, io gli ho detto che praticamente è quasi al livello del 440 quando lui esce con la 440 regolato a meraviglia. E ci conferma, infatti abbiamo fatto le prove ieri e gli ho confermato quello che gli hai detto, la stessa cosa, quindi per me va bene così, non cambia assolutamente niente. E dove è andato Tino? No, adesso si è allontanato adesso Tino, ad affare a casa. Si è andato meno un attimo, è entrato, ho fatto una battuta e è sparito. Tanto è, sì. Aspetta Giulia che devo leggere un messaggio. Aspetta un secondo. Leggimi. Blecco? Avanti Blecco, siamo qua. Ok, ciao Giulio, buonasera. Se per gentilezza mi dai un controllo radio, se devo toccare qualcosa. Per me va bene così, per cui non credo che ci sia bisogno, almeno per le mie orecchie, se poi in lontananza è diverso non lo so. Aspetta un attimo che entra un attimo Claudio che ha il telefono, per cui ci darà lui che è lui più lontano, noi siamo vicini, già non sai com'è la pressione. Magari lontananza ci può essere una piccola differenza, ma non penso più, guarda, perché la radio è buonissima. Ok, dai, va bene, sì, anch'io la vedo che sembra che sia buona, no? Eccomi. Triacla. Com'è questa? Cos'è questo? Questo è il serpente. Con il microfono normale? No, con il Turner. Ma che canto vedi che c'è il Turner? Ah, uno. Ah, solleva. Guarda, vedere, così è a metà. Cioè, noi stiamo parlando di radio. Fai che un microfono normale. Giulio mi ha detto che andava bene, non l'ho toccato. Ma c'è un picchio anche, quando lo metti c'è un altro picchio e dunque ha peggiorato la situazione, almeno qui da me. Cosa c'ha? Un? Un piccolo innesco là. Prova, schiaccia la portante. Ma è la ventola dell'alimentatore, no? La ventola è. Sarà la ventola, ma poc'anzi non si sentiva, adesso si sente. La differenza. Cosa dici allora? Massimiliano? Guarda, l'ho leggermente abbassato, guarda. Guarda, forse si ascolta ancora questa ventola. Adesso è quasi niente, dai. Si ascolta lo stesso, però non è come prima, ecco. È meno sensibile. Giulio, anche la tua si sente la ventola a me. Lo so, io ho il baracchino, cioè il baracchino, il microfono ce l'ho sopra la radio, dunque tu senti quello della radio stesso, perché ce l'ho col cazzo sulla radio. Ehi. E lo so che si sentono le ventole, questo sì, se magari lo sposto si sente di meno, certo. Forse sulla radio, quelli cazzo sulla radio, perché sono sdraiato a lungo il braccio e mi viene benissimo che sto parlando a tutta la lunghezza del braccio. Sì, si sente, si sente, vabbè, le ventole se si sentono, pazienza, non sono cose brutte, le ventole sono strumenti che fanno parte delle radio, degli alimentatori, balle varie, però non è un disturbo, si sente lo morde la ventola, ma la radio va bene, ma ci vediamo. Gappa gappa, così sono a tutto braccio, mi chiedo al massimo e niente, il microfono è leggermente poco meno della metà, dai. Dunque domani a Domos, va bene. No, non mi biasi, cazzo ci avete stamani a tutto un braccio, stai usando un dinamico, massimo 20 cm dal microfono, sì, tutto metallico. Allora, così com'è la situazione? Guarda un po'. Ecco, così devi modulare, devo sentire gli alti e i bassi, se tu ti allontani, stai usando un microfono dinamico, la voce si disperde e diventa metallica. Non si deve attendere MC60 che è un ceramico. Guarda, adesso qua me l'ho avvicinato un altro pelino, l'ho aumentato. va bene, si sentono le tonalità medio-basse, se tu ti allontani sento solo acuti, tutta dispersa, la voce è brutta. Giulio, come lo senti tu? Massimo 20 cm, stai usando il turner, massimo 20 cm dal microfono, non di più. Sì, però ogni tanto io sento un picchio, proprio un innesco, forse ha qualche altra radio accesa anche, probabilmente, o le cuffie, non so cosa, a meno che non ho le cuffie, è come si muove, sento, e ogni tanto lo sento, magari inizialmente, però poi smette subito. Sarà quello. Sì, no, ma va bene, quindi va bene. Solo che io sento molto, ma noi siamo vicini, sento molto la ventola, la verità la sento moltissimo. Io adesso l'ho allontanato, l'ho tolto il microfono da sopra la KF e l'ho messo a 50-60 cm. Dunque si dovrebbe sentire il nero la mia adesso. Ma guarda, oh, Giulio, io non c'ho. Ma l'alimentatore ce l'avrò buono a 20 cm perché è vicino, ma comunque domani è tutto in fase di atterraggio qua, capito? Posso metterlo tranquillamente in un'altra posizione un pochino più in basso, ecco, tutto qua. Boh, non lo so, comunque io l'atterraggio non ne ho acceso, cuffie non ne ho, c'è il radio e microfono acceso, boh, basta. Sì, no, ma perché ogni adesso non l'ha fatto, ma l'ha fatto già tre volte, l'ha fatto, però adesso un attimo, sì, faceva così e partiva proprio all'inizio, e poi ho pensato, ma forse alle cuffie è come si muove l'innesca per quello che fa il peso Marsen, è quello che stavo pensando, però la radio è forte, è buonissima, così va benissimo, la radio è buonissima. Se tu riesci a eliminare un pochino il fastidio delle ventole, perché quella ventola sta girando, molto probabilmente, io ad esempio l'ho fatto ieri questo lavoro, dentro ho aperto l'alimentatore, dentro tu dovresti vedere com'era, una pattumiera, ma se ne via, ce n'era poco di polvere, allora l'ho tutto quanto pulito con un pennellino e l'ho soffiato sulla ventola, eccetera, e poi ci ho messo un po' di disossidante per contatti e ho visto che rimane più silenziosa, la ventola dell'alimentatore. Però poc'anzi quella che sentivate voi era quella del baracchino, cioè della radio, dai, perché? Perché avevo il microfono fuori cazzo, perché non si sta in altezza nel tavolino, fuori cazzo sul coso, sulla radio stessa. Adesso l'ho spostato e il microfono adesso è sul comodino, ma il tavolino è a fianco al comodino, per cui si sentirà ugualmente, magari di meno, ma si sente lo stesso. Vai Emilia, vai di Emilia. Va bene, dai, sicuramente magari è troppo vicino e quindi vabbè, questo povero gli ha preso, perché ti ripeto, forse gli hanno mandato la foto, la so con lo sgabellino messo così, e quindi sarà anche per quello, posso anche pulirlo, ma domani comunque lo sposto da qua, lo metto nel ripiano più in basso, ecco, così posso tranquillamente magari eliminarlo un pochino di più. Va bene comunque, ma l'importante è che vada bene la radio, poi del resto è tutto a posto. Massimiliano, ma è quello piccolino l'alimentatore? È quello sposto, lo mettilo giù dove c'è quello grande. Adesso claro, l'ho messo così al volo, dai, sto facendo delle prove se funzionava quello che è arrivato, capito, capisci a me, e tutto il resto, là. Sono tranquillo che funziona tutto bene, ecco, poi domani mi sistemo meglio, capito? Non mi piace mai come sta a disposizione così. Ascolta, la potenza di copra cos'è, al minimo o al massimo? Non lo so, perché non ce l'ho il rosmet attaccato a questo, capito? Allora, c'è il pulsante che è in fuori, Guarda com'è, se... Allora, mi pare che in dentro sia potenza alta, in fuori potenza bassa. Allora, così dovrebbe essere potenza alta, guarda un po'. E glielo dici, ciuppa? Credo, non lo so, sì, però dallo smitto mi accorgo che è potenza alta, ma comunque non c'è bisogno, là, vedevo più picchi di modulazione nell'altra maniera. Qua sì, da 9, si è passato da 9,15 a 9,20, dalla potenza bassa alla potenza alta. Ok, questa è l'alta, bassa, però vedo dei picchi di modulazione allucinanti qua. Sì, lo fa. Kappa, va bene, dai. Se vogliamo fare un passaggio in FM che la voglio provare. Proviamo in FM, dai, Giulio, vai in FM. Sì, un attimo che vado in continua, perché io sono sul canalizzato, vado in continua per passare in UFM, cioè in FM. Ok, andate intanto, arrivo, dai. Ecco, adesso sono nella L. Perfetto, ok. Ricordati sempre, 440 e 440, non è né 140, né automatico, selettore dritto, la barra dritta. E tu quando ti sposti in USB, in SSB, dove vuoi andare, non devi toccare niente, già si arrangia lui. Ho capito, sì. Sì, no, l'ho capito dopo, toccando, cioè, perché quando ho messo i filtri ti sentivo bene, d'accordo. Ma poi tu mi hai detto che non c'era bisogno di usare il filtro, allora l'ho messo in automatico il filtro, e però ho toccato lo shift, perché non era regolato evidentemente lo shift. L'ho spostato e poi ti ho sentito chiaro, ma veramente bene. Sì. Io allora lo shift sempre dritto, sia la barretta rossa deve combaciare con quella bianca, io ce l'ho sempre dritto, non lo tocco mai. E il selettore dei filtri, ce l'ho sempre dritto lo stesso, è perfetto, no? Cavo la radio onda verde, beh. E tu Massimiliano, perfetto, lo stesso. Dove l'hai spostato tu il clarifer invece, a destra o a sinistra? Allora io sono andato CLA 075.54. Ok, è una coglionata, è una fesseria lo spostamento che hai, va benissimo quella radio, perfetta, ecco, segnati appunto 54, non andremo ad alterare, quando parli con noi che abbiamo l'HF, tu sei a posto, poi con i baracchini chiaramente sarà un altro discorso, magari sì, o più su o più giù ancora, dipende da che baracchino stanno usando. Vabbè, io c'ho sempre questo, ma questo qua va bene, per fare due chiacchiere così va bene, va. Ok. Perdonatemi, io mi rimango 5-10 minuti in ascolto perché mi ritiro tutto, qua ci sono scatoloni da tutte le parti. No, aspetta un attimo Massimiliano, dimmi come mi sentivi però in vado laterale, bene mi sentivi tu? Sì, ti sentivo perfetto, come Claudio. Ah, ok, sì, vabbè, no, perché io sono riuscito poi a capire come era la questione quando, proprio nel finale, che poi siamo subito passati in AM. Va bene, dai, ci sentiamo dopo eventualmente Massimiliano, se credi. Siamo ancora qua, avanti qua. Sì, ormai si fa un po' di pulizia lui lì, dai. Sì, Giulio, tu guarda, dove c'è scritto RIT barra XT IF shift, là c'è una barrettina rossa sullo 0 e una barrettina bianca, uno sul grigio e uno sul nero, quelli devono essere dritti, sempre dritti, noi non abbiamo bisogno di toccare niente. Ok, chi parla con noi col baracchino deve spostarsi lo shift. Per il selettore proprio c'è scritto select white, with, lì, dritto, auto, nella barra automatico, e tu non devi toccare nulla, io non tocco mai niente. Ok, sì, dopo l'ho capito toccando, cioè spostandolo, quando me l'ha detto mi sono spostato, però ti sentivo quando senza quello, quando l'avevo tolto, avevo messo i filtri, senza toccare lo shift, ti sentivo chiaro ugualmente qua, sia nel filtro 1 che nel filtro 3. Sì, perché lo stavi facendo andare in manuale. Però tu lo lasci in automatico, lui non ha problemi, io non li tocco mai. Mai. Anziché andare con lo shift per evitare appunto di spostarmi troppo. E vado col VFO e centro col VFO, capito? Cambio il decimale e vado a centrare chi sta parlando col baracchino. Però filtri, infatti io ti sentivo un po' papperinato, perché eri leggermente fuori. Quando poi hai messo il filtro in automatico e hai messo a zero lo shift, allora io ti sentivo perfetto. Beh, noi stiamo usando la stessa radio, quindi non cambia. Sì, in effetti è così. Sì, infatti, anch'io appunto, quello che ti dicevo, ti sentivo, poi cercavo di dare un filtro, passavo all'altro, poi alla fine ho pensato di muovere lo shift, ho pensato, e allora, perché quella cosa lì, quella manopola, ti aggiusta la radio, se è troppo per dire, se ci sono troppi toni alti, te li regola e te li puoi mettere più acuti, cioè più bassi, se ci sono troppi bassi, te li puoi regolare in in acuti. Sì, sì, sì, poi l'ho capito benissimo e l'ho regolato alla perfezione ed era una meraviglia, bellissima veramente. Sì, sì, sì, il 440 è così, perché se tu stai parlando con uno che è leggermente fuori, o vai a regolarti lo shift e praticamente le aggiusti la modulazione a lui. Però secondo come tu vai a regolarti e ti vai fuori tu, capito? Perché c'è una posizione più, una posizione meno. Allora, per evitare questo, io vado con VFO, capito? Anziché essere 27.085.00, per ascoltarlo bene magari sono 75.30.40 e vado a sintonizzarmi su di lui, ma io non lo tocco mai, né lo shift né i filtri, assolutamente. Va bene, va bene. E non ho fatto un'altra cosa, no, quello va bene, quello che facciamo a Massimiliano va bene, che non lo tratta mai. Adesso spero che sia messo a posto tutto e lo adopera col KR3, ho fatto le prove io, va benissimo, alla grande. Sì, sì, sì, no, stavo facendo bene, Guido, quando poi ho regolato tutto andava benissimo, non ci sono problemi. Sì, sì, sì, sì, sì, veramente. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. C'è qualcuno che vuole entrare a chiacchierare? Sì, sono qua, sono rientrato. Ah, ok, Tino. Va benissimo, dai. Sono con Claudio, come avrei sentito. Non so se hai ascoltato, c'era anche Massimiliano poc'anzi, però ha da fare, per cui. Li prendi, Tino? No, non ho avuto modo di sentirlo perché ero fuori, che stavo mettendo la legna nella carriola per qua sera. Ho provato il 60 e niente, però è un po' più basso di questo, mi stava dicendo Giulio, però la modulazione è chiara. Oh, e quindi il problema dov'era? Il problema non ce n'era, è che dovevo fare una cosa che non ho fatto, sinceramente, e quindi ho risolto, dai. Perché mi sembrava strano che con l'MC43 andava e invece con questo no. Però va comunque, non è forte come questa, però va. Se aspetti, dai, lo ristacco per l'ennesima volta e te lo faccio sentire. Sicuramente non hai fatto il ponte per il collegamento dell'amplificazione. Allora qua, piaciuta anche la partita ieri notte, non mi è piaciuto Cancelo, non mi è piaciuto per niente, nemmeno Mandzukic. E poi gli altri, vabbè, Dybala non è giudicabile perché ha fatto pochi minuti, una mezz'oretta, e gli altri, dunque, peccato quel gol che ha preso, ha fatto una cosa buona e l'ha subito rovinata Cancelo. Quando ha fatto il cross per la testa di Ronaldo, bello il gol, cazzo, da Borlangio, il gol si è entrato, e quando era la punizione proprio dal limite, non di testa, ma quando era di piede, per ogni colpo di testa, bellissimo veramente. E poi l'ha rovinata all'inizio del primo tempo, del secondo tempo. Ha fatto quel rinvio stupido sui piedi dell'avversario, anche Szczęsny era fuori posizione, e anche lui, una piccola percentuale di colpe c'era anche lui, pazienza. Comunque il risultato è importante, aver segnato fuori casa è importante quello. Eccomi, guarda un pochino qua. Sì, c'è una radio, no? È più bassa, devo dire più bassa. In confronto al più 4, così mi hanno detto, è tutto dicendo. Questo è l'MC60 con il presidente Lincoln. L'unico difetto che c'è è un cacchio di presidente Lincoln che mi va sempre a saturarmi leggermente la modulazione, se no ti posso dire che è una bellissima radio questa, va bene. E l'impedenza quanto ce l'hai? A 50, sì? Sì, a 50, guarda se sta saturando ora, non credo, ma allora dipende qualche cosina dall'apparato, perché poc'anzi non stava saturando. Prova a baciare il watt appena. L'ho già fatto, guarda. Non so quanto sia adesso perché non ho, forse a 5 watt. Vedi che non satura a 5 watt, va bene. E come che stai usando il 440 senza processore? Infatti. Adesso faccio sentire un altro microfono palmare, giustamente, ma perché è giusto? Perché abbiamo fatto quelle prove ieri che abbiamo regolato sia il watt che la radio. Aspetta. Stacco nuovamente questo Vabbè, comunque dammi una valutazione tra questo e il 4, così almeno. Ma tanto qua sicuramente me ti lascerò il 4. Guarda, come modulazione è abbastanza chiara, però il 4 ti posso dare 9, per non darti 10, per avere un parametro così orientativo. Questa ti posso dare massimo 6. Va bene, eh. E questo invece è il classico microfono palmare, che non è il suo originale, perché il suo originale andava in saturazione. Aumenta il watt, così mi dici, così sono 10 watt, se vai in saturazione anche questo, guarda un po', con 10 watt. No, questo è un pochino più alta rispetto al 60, ma siamo lì, però ottima modulazione anche questo. Questo qua è il Midland? No, questo è quello che mi hai dato tu, che è il dinamico, e sono riuscito a farlo funzionare. Ma quello è un signor microfono, sembra che stai usando un microfono preamplificato leggermente più basso, dai, una media tra il 2 e il 3 come preamplificazione. Sei d'accordo, Giulio? Sì, sono d'accordissimo, sì, ma abbiamo provato anche poc'anzi e abbiamo appunto regolato, ad esempio, il 70 che andava bene proprio come hai detto tu, ed era perfetto, è perfetto. Per cui chiaro, la modulazione leggermente più bassa, però chiarissima, ma io l'avevo già detto a Tino. Però poi quando ha messo l'MD più 4 è quello che mi piaceva di più. Vai Tino. K. E questo invece è l'altro, il microfono Midland, però con una K sulla differente, che è un po' più superiore di quella che c'era, eh? Quindi un po' si è cambiata la modulazione tra uno e l'altro, parlo sempre dei palmari, eh? Questa è bella, c'ha un po' di acuti e va bene, però io preferisco l'altra perché c'hai anche i medio bassi, l'altro microfono, quello della standard. Questo invece è una K sulla Cobra. Ma l'altro è migliore, vero Giù? Sì, quello del prima, il microfono palmare di prima era migliore di questo. Allora va bene anche questo, non è che non va bene, sia ben chiaro. Ma però l'altro era una qualità superiore. Va bene, era giusto per farvi sentire anche qui. Sembrava giusto togliere dal cassetto e valutare anche qua. Claudio, via. Ciao Tino, buonasera, ben ascoltato. Domanda, domani mattina ci vediamo che ti mando un vocale. Ci possiamo anche vedere, non lavoro, mi hanno avvisato adesso che c'è troppo fango ed è un casino nero. Ti mando un vocale per vedere se per te potrebbe andare bene. Ok, manda. Così ti porto giù quella roba vecchia, va bene, manda il vocale. Sì, sì, e l'altro è migliore, va bene anche quello della Midland, eh? C'hai gli acuti, va benissimo, però quell'altro mi piace più come tonalità. Va bene, ciao Massimiliano, ho montato un leggero innesco, Massimiliano, non so cosa stai utilizzando, però appena l'innesco c'è. C'è? Non lo so, ditemi voi. No, scusami, sono delle ventole. Ah ecco, non lo so. Sì, dai, l'alimentatore devo allontanare, capito? Tino, ho cambiato postazione, quindi mi sto mettendo tutte le radio a posto, però c'ho l'alimentatore che è troppo vicino e quindi il microfono sicuramente è troppo amplificato e prende tutti i rumori, dai. Io lo sento abbastanza, tieni presente che lo sto ascoltando col presidente, quindi essendo magari un pochino più sotto, figuriamoci con l'altro. Comunque, era giusto per avvisarti. Va bene, abbiamo giudicato, mi hanno tirato le surti e mi hanno detto che va meglio il 4, anziché il 5 su questo apparato, Massimiliano. L'ho perso. No, aspetta, registrando un vocale. E vabbè, allora, non mi ha sentito, va bene. Va bene, proprio fatte, raggiunta l'ennesima soddisfazione, tra virgolette, perché almeno non devo stare lì a cacciavittare, quindi, scusate un attimino. Ok, sì, va benissimo così, dai, perfetto. E te che tu cosa mi dici a riguardo della partita ieri, due parole, Ma cosa ti posso dire? La partita se l'ha giocata sia la Juve che l'Ajax. Bisogna stare attenti a non prendere gol a Torino perché l'Ajax è fortissima fuori casa, sai che ha, ha battuto il Real Madrid in casa, quindi molta attenzione. Cancelo non mi è piaciuto per niente, io pensavo ci fosse Spinazzola, quindi spero che a Torino giochi Spinazzola al posto di Cancelo, perché Cancelo fa troppe cagate, una buona e cinque cattive, perché il gol l'abbiamo preso per colpa sua, capito? Quindi bisogna stare molto attenti all'Ajax, perché l'Ajax è una grandissima squadra di giovani che corrono e tecnicamente sono tutti scuola Brasile, capito? Sono olandesi, ma è tutta scuola Brasile, hanno un gioco fenomenale, perché l'abbiamo visto. Ho visto un grande Douglas Costa in rimonta, in grande forma, quindi spero che a Torino non faccia cagate il signor Allegri, perché allora la Champions se la scorda, se l'Ajax segna lui si scorda la Champions, quindi spero che metta la testa sopra il collo e non nei piedi e faccia una formazione dignitosa e con voglia veramente di giocarsela la partita, capito? Perché non può, è assurdo che ci sia in campo solo un giocatore come Ronaldo che stia segnando in Champions, non lo so, cioè è assurdo, capito? Non ti dico altro, ma spiegare quel messaggio. Ok, leggi. Gianni Lubrafetta, ci sei? Vabbè, rientrate Massimiliano. No, non è rientrato, stanno parlando al telefono. No, io non sto parlando al telefono, Giulio, c'ho un casino nero qua, c'ho scatoloni, radio buttate sopra i divani, nel letto, da tutte le parti. Qui mi sto mettendo l'alimentatore, c'è tutto buttato in terra, là. Mi sto mettendo un po' in ordine, mi capito? Se no quando arriva mia moglie prendo colpi. Vabbè, ma se vediamo, torno in mano, un attimo basta a dirlo, apro il cofano, carichi quello che mi serve e prendo, tu. Oh, mamma mia, questi problemi che hai. Isso, cazzo, non sapevo di aver trovato la roba, vero? Ho trovato un altro scatolone poco fa, dentro una casetta, sono andato a cercare una cosa, era cambiato il radio. Chissà non è riuscito che il radio, boh. Avranno partorito stanotte, che lo sa? Beh, allora, però un consiglio, non si vedi, allontana quell'alimentatore perché ti sporca molto. Mettilo in terra, lontano, un'altra stanza, boh. Sì, no, già lo metto lontano. Guarda, adesso ho abbassato un pelino l'amplificazione, com'è? Il rumore della ventola è rimasto tale uguale. Ascolta, se io invece mi metto in questa posizione così, cosa cambia? Cambia che quando parli non lo sento, però se è un secondo di bianco si sentono le ventole della maestra. Vai. Eppure adesso l'ho allungato da un'altra parte. Vabbè, comunque, dai. No, non è che hanno cresciuto, Giulio, a volte conservi le cose e non ti ricordi più dove le metti, no? Quando vai a cercare una cosa poi la trovi e trovi anche altra roba, che non sapevo neanche che ce l'avevi questa roba, buh. Oh, raga, però adesso le ventole non si sentono, è percepibile. Sì, ma è così, vedi, è così. Tu pensa che stavo cercando un bar, avevo fatto un bar, 4-1, l'avevo fatto, e non riesco a trovarlo, eppure qua a casa, non lo so, in mezzo a tutte le cose, chiamiamole cianfrusaglie, che io non riesco a trovarlo, gira, perché stavo pensando di fare un'antenna e col balon però, per evitare i contropesi e il balle varie. E non riesco a trovarlo, e l'ho già fatto. Comunque ho i toroidi, cioè io gira mi conviene rifare il toroide, rifare il trasformatorino e non se ne parla più. Vabbè, avanti Tino, sì, l'abbiamo parlato anche focante della ventola, ma io gli ho detto che probabilmente sia aspirato anche un po' di polvere, io l'ho fatto ieri quel lavoro lì, l'ho aperto l'alimentatore, ho pulito bene dentro che c'era una pattumiera piena di polvere dentro, perché come aspira, come mandaria, se la aspira la polvere se la porta dentro, per cui ogni tanto io sistematicamente l'apro e lo pulisco, infatti è diventato molto ma molto più silenzioso, che era simile a quello di Massimiliano, era così sicuramente. Vabbè, avanti Tino. Capo, no, sto dando una precisazione a Claudio Focanti per quanto riguarda Massimiliano, che quando ho fatto l'amplificazione le ventole poi si sono sentite molto di più, adesso erano percettibili, come ha detto lui, no? Perché ha abbassato l'amplificazione. A mio parere è sempre meglio metterlo un po' più distante, poi fate come volete, per carità. No, 9, io lo stesso, io ce l'ho distante la mettatore da un'altra parte, proprio dietro la scrivania, in fondo, in una base fatta apposta per gli alimentatori. No, però lui ce l'ha vicino, capito? Ma adesso è impercepibile, nel senso che si sente molto meno, metti, capito? Questa voce. Sì, sì, ti ricordi quando avevo il 140 crack, avevo un alimentatore, quelli pesantissimi, io non dico autocostruito, ma un similare di autocostruito era l'Alfa Elettronica, mi ricordo, avevo un'alternata allucinante. Beh, ce l'avevo nel piede del tavolo, diciamo, dove solitamente era una scrivania antica, quella che avevo io, no? E avevo l'appoggiapiedi, chiamiamolo così, giusto, volgarmente chiamato, oppure non so se si chiama così. Comunque l'avevo appoggiato lì, data l'alternata, addirittura tutto il tavolo, il microfono raccoglieva le vibrazioni, a tal punto che ho dovuto mettere in terra, distante almeno un metro, proprio per non avere questo problema qua, e poi erano 20 ampere, niente a che vedere con questi 50 ampere switching che esistono oggi, Sì, beh. Che non stai uscendo? Ok. Ah, pensato. Ok. Sì, ma in effetti è così, perché quel tipo di alimentatore hanno un problemino nell'ingresso, Tino, per quanto riguarda il filtro. Il switching si dà perfettamente la corrente stabilizzata al 100%, mentre invece gli alimentatori, quelli all'antica, diciamo così, a trasformatore come una volta, quelli bene o male, quando incomincia a usurarsi il condensatore dell'ingresso, cioè del filtro, allora comincia qualche volta di alternata ed ecco che crea quel problema lì. In effetti hai ragione. I switching, ripeto, sono più filtrati, ecco, sono più stabilizzati, proprio al 100%, perché io l'ho misurato con lo strumento. Io ne ho un altro, ne ho di alimentatore così, e questo non mi dà nemmeno mezzo volto di coso di tensione alternata, mentre invece quello tradizionale, quello mi dà due volti di alternata. Metto quello a parte la ventola, mi fa alternata ugualmente, che sembra che ci sia la ventola, invece lì non ce n'è ventola, ecco come. Vai, tipo. Carico positivo. Mi stavo dicendo, giù, sei informato sulla modifica del più 5, se io la voglio eliminare, cosa bisogna fare? No, io ho detto il più 4, io ho la modifica del più 4. Ci vuole un ponte, ci vuole, però suppongo che anche quello del 2.5 siano lo stesso, perché senz'altro è così, perché il 2.5 è in più ai toni e suppongo che sia uguale, però è da provare, questo è da provare. Per il più 4 sono sicuro, ci va un ponte, ci va in una resistenza, anche senza bisogno di staccare la resistenza, ci fa un ponte diretto, un contatto diretto, e migliora molto la modulazione come potenza, come forza del radio, per cui ce l'ho anche la foto, adesso non mi ricordo se in questo telefono o nell'altro, però ce l'ho, se vuoi te la mando, poi vedi un po' cosa puoi fare, cosa vuoi fare. Sì, sono uguali, praticamente il più 5 il tono non c'entra niente, la modifica sul potenziometro del circuito di preamplificazione. No, era giusto per vedere un pochino, perché io ho un più 5 che sicuramente gli hanno fatto la modifica, e va meglio quello senza modifica che con la modifica, quindi a quel punto preferisco toglierla. Sì, Tino, non cambia niente, sono uguale, ce l'ho anch'io più 5, però io l'ho comprato da Gigi ed era già modificato, l'ho lasciato così, infatti il potenziometro lo tengo molto più basso rispetto a un altro MB più 5 normale, capito? Però va bene. Oh signori, dai, io vi lascio, se ci siete ci sentiamo dopo che vado a sistemarmi il cane, ok? Prima che magari piova, eccetera, eccetera. La strada è asciutta così non si sporca neanche. Ci sentiamo. sentiamo dopo, lascio tutto acceso. Va bene, qua, d'accordo, siamo qua. Otti, sicuramente è nell'altro telefono perché ho questa modifica. E dunque, se mi dai il tempo, se la vuoi adesso te lo mando subito, se no dopo magari quando finiamo di modulare io apro l'altro telefono perché ce l'ho giù, ce l'ho l'altro telefono, non ce l'ho qua a portata di mano, scatto la foto e poi me la passo nello smartphone e te lo mando su WhatsApp. Va bene, no, non c'è problema Giulio, non è una cosa che devo fare adesso, era giusto per vedere un pochino cosa si deve fare, cioè da normale a modificato, cosa bisogna fare, perché io sinceramente non la intendo, poi vabbè, vedrò un pochino di sentire anche a Antonio, perché lui che mi fa cavi, cavite e quant'altro, che sai, uno dice impara l'arte e metterla da parte, ma mi devo lasciare fare a chi ne sa più di te, no? Vabbè, ma certe cosettine diciamo che già ci possiamo permettere anche noi di farlo, perché già quando si sanno le cose non è un problema. L'unica cosa è stare attenti con il saldatore a non rovinare la pista, tutto lì. Va bene, dopo te lo mando, dai, ci sono dei punti da fare, due punti sono, sono due resistenze, uno affiancato all'altro, e basta mettere un pezzo di filo diretto da un filo all'altro, da un capo all'altro e così la modifica avviene, senza bisogno, c'è qualcuno che dice anche ma stacco la resistenza, ma non c'è bisogno nemmeno di staccare la resistenza, basta fare il ponteggio, il ponte e la resistenza è come se non ci fosse, perché bisogna stare mandando diretto, la cosa. Poi te lo mando, dai. Ho visto che già aumenta, poi cosa me ne si dica? Se poi dipenderà anche dal baracchino da dove stare, questo non te lo so dire. So solo che una modifica al microfono, sto parlando dell'MB4, ma suppongo che sia anche uguale per l'MB5, in quanto l'MB5 è simile in più a solamente i tuni, per cui non credo che l'amplificazione sia differente da quella dell'MB4. Va bene, dopo te lo mando, dai. No, va bene, giusto per poi. Ti ripeto, provarsi che questo con la modifica, non questo che sto utilizzando, questo è il Q4, tieni presente questa modulazione. Cambiando microfono, magari dopo ti metto il Q5 che così mi hanno detto che è stato modificato, magari agendo sui cursori, sul mic, sui tuni, magari riesci a portarlo a pari a questo, è quello che volevo capire io. Ah, ok, ho capito, sì, ho capito cosa vuoi fare, abbassando i toni o alzandoli per poter cercare di fare più bassi anziché alti come a quelli, e ho capito, sì, è troppo, dai. Si tratta solo di tenerti in, come si dice, in mente questo tipo di modulazione e portare il microfono Q5 a questo, così almeno posso utilizzare il Q5 a questo apparato, niente di che. Vediamo, facciamo questa prova se ne voglia. Prova. Q5, vedi un po'. Così come sei è più basso, molto più basso. Più basso, va bene, posso aumentare di amplificazione e il tono magari. Li posso chiudere, vediamo un pochino cosa cambia. Adesso è addirittura più alto, provo a abbassare appena l'amplificazione. Allora, abbassiamo leggermente l'amplificazione, vediamo un pochino, il tono li lascio a zero. Ecco, quella è la stessa modulazione che c'è adesso, con questo con il microfono praticamente è paragonabile, simile all'MB4. Guarda, adesso te lo cambio così almeno ti ricordi la modulazione. Questo è il Q5, sto modulando col Q5. Cambia. Mentre invece questo è il Q4. Ecco qua, sto modulando con il Q4 ora. Ecco, ancora il Q5 è ancora leggermente più alto. Ah, quindi con modulazione siamo simili, so che devo appena abbassare l'amplificazione, oppure lasciarla così, non lo so. Sì, infatti è così, abbassa un po' l'amplificazione per portarlo allo stesso livello del Q4. Però così è bellissimo, sia ben chiaro. Il 5 così è bellissimo, eh. In maniera tale che non distorga, non. Guarda un attimino se va in saturazione, se. Perché il watt va bene, l'ho toccato, però la modulazione è simile al 4, o precisa, non lo so. sta a tener conto che ho il microfono ad 7,5, mentre invece l'altro ce l'ho a 9,2, l'altro invece è a 6, però senza tuni, sento con i tuni e i tuni ce li ho a 1. Sì, sì, puoi metterlo anche a 7, non a 7,5, lo puoi mettere anche a 7 per essere proprio uguale identico al B4. Ah, va bene, ecco qua, abbassata per appena ancora, eh. Non è importante che, insomma, che ci assomigli così almeno, evito di togliere anche la modifica, ecco. Così è uguale, tutto perfetto. Ecco qua, va bene, dai. Allora, lo lasciamo così, volevo sentire anche qualcuno prima 80, ma adesso è cambiato la durazione, comunque. Se mi stai dicendo così, va bene. Così almeno lo posso utilizzare, più, capito, sennò mi dà fastidio averlo attaccato e buttato lì da una parte. Sì, sì, così come adesso è regolato perfettamente come il 24, come ce l'avevi, come ce l'hai. Se poi aumenti il più 4, chiaramente dovrei aumentare anche quello, è ovvio, no? Perché devi andare di fare il passo, no? Certo, va bene, allora lo lascio così. Così va benissimo, non è diciamo assordante, va benissimo, è fortissimo lo stesso, no? La radio è fortissimo, perlomeno alla distanza che siamo noi. Se poi devi parlare a 30 km, questo non te lo so dire, questo è un altro discorso. Però così, a questa distanza dove siamo, dove sono io rispetto a te, va benissimo, non bene, benissimo veramente, tutti e due così. D'accordo, allora va bene, lascio questo qua, così almeno evito e attacco il più 4 al Ruiz che è senza microfono. Ah, è ok, sì. Vabbè, dai. Va benissimo. No, io, a me mi manca il microfono, il 43 mi manca qui, da questa radio. Peccato, l'avrei voluto, ma vabbè, già ho 60, per cui non è un problema. No, la soddisfazione di averlo più che altro. Ah, sì, No, io ne ho solo uno, sono per aver dato, senza problemi. È che se manca anche a me, se no, ne ho il microfono normale. Sai, quando vai magari in banda è preferibile anche quello palmare che è il 60, no? Vabbè, quello sì, ma comunque poi influisce anche molto la timbrica della persona e da microfono a microfono, magari con una timbrica diversa del radioamatore cambia sicuramente, perché così succede, così non è come tu, vabbè, in linea di massima tu hai quella modulazione che ti assomiglia anche molto come timbrica a quella di Massimiliano e a quella di Claudio, mi siete tutti in quel cerchio lì siete, per cui avete una bella timbrica e le radio vostre sono sempre meravigliose, sempre con qualsiasi microfono, con qualsiasi amplificazione, a parte se c'è poi una cosa, no? Se c'è una, come si dice, una compressione troppo alta, è chiaro che non va bene, però quando sono regolati bene in linea di massima siete nella stessa cerchia, siete. Buonasera a tutti. Carta. Milomi, sì, diciamo che abbiamo una sorta di timbrica molto simile. Avanti. Buonasera a tutti, Gianni Lo Profeta al Centro Storico, buonasera Tino, buonasera Giulio. Ciao Gianni. Benemeda, ciao Giù. Ciao anche a Tino. Ho salutato, non so se mi hai sentito. Sì, copiato. E allora, che state combinando? Quattro chiacchiere stiamo combinando, niente di particolare, così qualche piccola regolazione. Poc'anzi ti ho chiamato, si vede che non c'eri. E hai preferito fare una passeggiatina stasera? No, stavo sbrigando a altre cose, l'ho acceso poco fa. Insomma, ho sentito che stavate cambiando roba di microfoni, quindi ecco qua. Esci che entro anche io, ora? Sì, avanti. No, mi sono montato un attimino, pensavo facciamo una prova. Ok. Sì, Gianni, stavamo facendo quattro chiacchiere, no? Ma c'era anche Claudio, un po' canti, ma è andato a portare il cane, e dunque rientrerà, suppongo che rientrerà fra un po', perché è già andato via una decina di minuti, dunque sarà già quasi per il rientro. Bene Meda, sì. Più o meno, questa è la prassi. Questa è la prassi. Quindi, novità? No, hai fuori di un breco che c'è adesso, avanti il breco. Ogni tanto una radio nuova. È così che ci piace a noi, ogni tanto una radio nuova. E beh, e noi siamo contenti, avanti. K positivo, Giulio. Bella, dai, è bella, non c'è da dire, niente da dire, dai, va benissimo. Con i suoi 5 watt modulati. Va benissimo, ma che cos'è questa? Lui si è questo qui, è bello, eh? No, Giulio, è un 48 Colt. Però senza eco, con scatola eco. Ah, ho capito, oh, va benissimo, lo sai che cosa ti dico, lo sai che mi piace. Io guarda, sono sempre stato contrario via alle modifiche su 48 eccetera, però questa radio così come la stiamo usando adesso mi piace, non è molto ripetitiva, anzi diciamo che non è ripetitiva per niente, però c'è quella profondità che è apprezzabilissima. Cappa, dai, è che devi parlare più tranquillo, più lungo, più moderato, in maniera tale da far capire ciò che dici, sennò si accavalla un po' il tutto. Va bene, c'è una piccolissima ripetizione, ma va benissimo, a me piace, è una bella, è una bella radio, ma ripeto, torniamo a quel discorso del poc'anzi, io sì, è sempre la timbrica dell'uomo che influisce moltissimo, e certe persone quando mi sento con questo elicottero devo dire che non mi piacciono più per niente, poi naturalmente ognuno è padronissimo di usare quello che vuole, ci va altro. Però la tua timbrica, non so come è regolato, però la tua timbrica mi piace su questo 48 modificato. Avanti Gianni. Sempre smanettando, ragazzi. Vabbè, se volete, se vi interessa il mio parere, il mio pensiero sull'uso dell'eco, io personalmente non sono favorevole all'uso dell'eco, cioè non mi piace, non parlo di gusto mio personale, poi avrà un suo senso nella banda CB, avrà la sua storia, un suo senso, però personalmente non mi è mai piaciuto. Va bene, è che anch'io sono del tuo parere, è giusto per gioco, per me. Il brutto di questa scatola eco, perdonami se sono entrato così duro, è giusto per specificare un pochino il funzionamento, è che purtroppo non la posso, perlomeno per come mi hanno fatto le modifiche, non la posso disattivare, ecco, cioè dovrei disattivarla come? Togliendo l'entrata del mic e mettendo il mic nell'apparato, quindi risulta un semplice microfono non amplificato, ecco, perché neanche l'amplificato va bene alla scatola eco. Io infatti non è che lo utilizzo spesso e volentieri, ma giusto per carteggiare, tra virgolette, così come faccio non sempre ma ogni tanto, ecco. Sì, qua avevo Tino, sì, no, ma è quello che appunto dice, anch'io sono contrario all'eco, soprattutto quando è molto ripetitivo, no, quello no, così non piace, però come la state usando, l'ho paragonata praticamente alla timbrica del Saturn Echo, quando si inserisce l'eco, ecco, l'ho paragonata a quella, e devo dire che si rassomiglia moltissimo, è così. mi piace, devo dire che mi piace, è tanto che non sia troppo ripetitivo la modulazione, perché se no allora non mi piace assolutamente, però è anche chiara, è chiara, va bene secondo me. A parte il discorso che a uno può piacere o meno, nemmeno io, ecco, non è che io ce l'ho un microfono con l'eco, eccetera, ne ho un paio, però non li uso mai, non li ho mai usati qualche volta, se non per fare prove, anche perché sono sempre stato contrario anch'io. Però questa, la profondità è la timbrica del Saturn Echo, perlomeno con la tua voce, poi magari ci metto la mia voce e sarà uno schifo, che ne so, vai ti. Arrivato sono. Ehi, è chiaro. Sì, vabbè, no, ma è giusto così per gioco, poi se non mi sbaglio, adesso non ti ho chiesto il controllo giù del segnale, ma sicuramente molto più basso delle altre, perché questo è un 5 watt normale, non questo che sto utilizzando, ma quello con l'eco. Poi se vuoi ti do anche la conferma, dovrebbe essere un 5 watt e poi va magari un pochino aumentare con l'eco, ma niente di che. Sì, ho capito. No, va bene, mi fanno ascoltare anche a Claudio quella camera eco e vediamo un po' qual è il suo parere. È entrato anche Gianni Lubrefetta o Claudio, vai. Ciao Gianni, allora, ti ho mandato un messaggio da presto, però ancora non ti è arrivato, non so se hai problemi su WhatsApp. In questo momento ho dei problemi, quindi no. Ho dei problemi su WhatsApp. Vabbè, non stai a dire, hai problemi su WhatsApp. Vabbè, ok. Come ti avevo preparato il cavo, ti ho mandato un messaggio, cioè domani mattina, perché devo fare un paio di commissioni urgenti e importanti. Se mi rimangono 5 minuti ti chiamo e te lo passo, capito? Questo è il messaggio. Ciao, grazie. Ok. Sì, ma continuo io questa cosa, l'ho già vista Giulio, perché abbiamo fatto tutte le prove. Non si allontana molto, anche se c'ha 5 watt, come abbiamo detto, da 5 a 8 o da 5 a 10. Non è che perdi punti S o vai oltre o vai sotto, non cambia niente, capito? Normale, lui qua, con la RAN 48, quello con l'eco, con la camera eco mi arriva 9,5, con quello normale mi arriva 9,5 lo stesso, 9,8, quasi 9,10, dai, ma non cambia niente, non è quello il problema, l'importante è che ci ascoltiamo e a me piace molto la modulazione, voi lo sapete, da 40 anni io ho sempre curato la modulazione, a me il segnale non me ne ha fatti nulla, capito? Non sto lì a quanto ti arrivo o quanto non ti arrivo. No, la radio deve essere bella perché tu mi segni Giulio, come siamo, insomma, io ci sono un anno dopo di te in radio, tu sei entrato nel 73, io sono entrato nel 74, nonostante tu abbi 16 anni in più di me, o 15, adesso non mi ricordo. Comunque, quindi ho sempre curato la modulazione, a me mi piace la modulazione, perché puoi arrivare Santiago 0, però radio 5, e quello è molto importante. Sì, ma è così, in effetti è così, anch'io sono dello stesso parere, curare sempre la radio, la qualità della radio e lasciare perdere magari anche un punto S per dire, non me ne frega niente, intanto quando mi senti basta, no, non ho vinto niente io e non hai perso niente tu che mi ascolti per dire, no. Sì, per la cronaca io 72 febbraio sono entrato, ho fatto praticamente 47 anni a febbraio appena passato. In frequenza eravamo pirati allora, pirati, e tu lo sai benissimo, la legge è uscita nel 73 per la concessione, nel 74 poi ce l'abbiamo fatta un po' tutti quanti, e mi ricordo benissimo che a me mi aveva fatto la domanda allora, anche perché lui aveva i moduli precompilati, e il povero McAllen, ti ricorderai benissimo, l'ex amico di Tazza, soprattutto di Tazza, di Rosa Verde. Avanti qua, fai girare poi tu. Sì, io ma che lei le ho sistemato anche il baracchino, poverino, e poi ci sei molto. Lì a Rezzendo, insomma, quella già mai capito che abitava. Abbiamo messo a posto tutto e stava iniziando a entrare di nuovo e poi siete morti. Va bene, sì, io nel 74 avevo praticamente 15 anni, quindi 15 anni, perciò mamma mi aveva fatto la delega lei per la concessione, perché era uscita nel 74, insomma, se fine 73, dice 74, però io già un anno, nel 73, appunto modulavo questa concessione con Lafayette HB23 e il Tanner B2 da tavolo che era appena uscito, che era una cosa spettacolare. Aspetta, ho comprato tutto, l'ha pinto se scarpa in via Cavour. Ma aveva regalato in nonna i soldi, quindi immagina già dei dubbi, i tempi. Perciò io sempre ho avuto una bellissima modulazione, sempre, sempre, non perché, però sempre una bella modulazione. A me il segnale poco mi interessava, anche se curavo anche quello, perché le posizioni che avevo, sia quando modulavo a casa di mamma, che ero sul lungomare, sia poi quando sono arrivato qua a Sassari, arrivavo bene a tutte le parti. Però la modulazione è molto importante. Avanti, ti fammi sentire questo, le carecca, ma mi pare che me l'hai già fatto sentire. No, non ti faccio sentire le carecca perché l'avevo già sentito e mi avevo detto che andava bene. Mi interessa invece un'altra cosa, tieni presente questa modulazione, la stessa cosa che ho fatto con Giulio e poi rilancio già. Allora, questo è un microfono, mi devi dire se cambia la modulazione con un altro microfono che io sto per innestare ora, tieni presente questa modulazione, ti? Ok, passaggio numero uno, vai. Ecco, questa è l'altra, vedi un po' se ha cambiato qualche cosetta. Lui il mio paragone, il primo passaggio stavi usando una 126L, o per dire una 500L, qua stai usando, non dico una Mercedes, ma una macchina superiore, c'è un abisso, Tino. Uno è da 5 e l'altro è da 10, ti ho detto tutto. Quindi tu tieni presente questo microfono qua, e con l'altro mi dovresti modificare o il mic gain o il tono, per vedere se riesco a portarlo parità prezzo con questo. Ok, vai, siamo qua anche per quello, vai. Ecco, adesso da qua io posso diciamo lo posso modificare, poi devo fare una bassa che mi stavano chiamando, gli ho chiuso il prezzo. Guarda cosa posso fare. Questo sì, mettila là. Questo adesso non noto differenza, ma l'hai cambiato il microfono, sì. Se ti dico di sì, questo è un microfono, adesso te lo ricambio. Vabbè. Questo è l'altro microfono, quindi primo passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio microfono. Questo è l'altro passaggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ti ho fatto lo stesso passaggio per vedere un pochino se cambia o meno. Questa mi sembra un po' più cupa, i toni a quanto ce l'hai? Questa, quanto ce l'hai i toni? A 1, toni a 1, perché, poi ti spiego, dai. Toglili a vedere. Questo è senza toni, quindi dopo ti dico il perché volevo fare questa operazione qua. Allora, questo senza toni già va bene, rimetti l'altro. Eccolo qua, l'altro è questo, 1, 2, 3, vedi un po'. Questo i toni ce li ha? No, ecco, questo è il paragone che voglio fare io, questo è più 4, mentre invece l'altro è più 5. Devono funzionare, vabbè, più 4 toni non ne ha. Il più 5 senza toni si assomiglia molto al più 4. Sbaglio, Giulio? E gliela faccio regolare io poco fa così. Non sbaglierò, certo, che sono praticamente simili, dai, c'è proprio una minimissima, ma proprio una minimissima veramente differenza. Abbiamo fatto quella regolazione poc'anzi, perché lui vorrebbe utilizzare quello allo stesso livello del più 4, senza esagerare con i toni alti e naturalmente mantenersi i suoi toni bassi, che sono proprio quelli dell'HF praticamente, simile, dai, siamo lì. Io l'ho già sentito poc'anzi, lui adesso l'ha ripetito e tu hai confermato quello che ho detto io in pratica. Vediamo cosa dice Gianni, vai Gianni. Sì, aspetta già, ti rilancio subito, era proprio appunto quello che ti ha detto Giulio. Va bene, allora lascio questo, così almeno utilizzo anche questo. Volete scusare, devo andarsi in corso che purtroppo ho dovuto spegnere il telefono all'ingegnere. io. E cosa volete che vi dica? Mi posso astenere? No, ma no, perché lui vuole utilizzare quel microfono per avere sempre la stessa modulazione, sia con 5 che con 4, ecco qual era la differenza, solo quella, ma era una regolazione che avevamo fatto poc'anzi. Dunque adesso anche Claudio ha confermato che tenendo a quel livello è simile, dai. Certo non è proprio la fotocopia perfetta, però è lì e non è che ci sia poi grande differenza, anzi è minimissima, ma proprio minima. Vai Claudio, anche Claudio deve essere al telefono. E vabbè, dai, avanti Gianni. Con questi vocali a volte, mamma mia, no, stavo mandando un vocale vaccinato perché mi devo vedere domani mattina, dobbiamo vedere un lavoro visto che è libero, capisci? Sì, giù, beh, l'esperienza ci insegna che non si può smentire, se tu dici una cosa io la confermo perché la realtà, se fosse diverso non la confermerei, quindi è così. Tino, puoi usare tutti e due i microfoni allo stesso livello, perché escono tutti e due uguali, hanno tutti e due medio-bassi, che praticamente è quello che tu riesci ad avere quando moduli con il 440 e l'MC60, e con i due microfoni, il più 5 senza toni, il più 4 che non ha toni, con i medio bassi si assomigliano molto alla tua modulazione standard. Punto. E infatti è tutto così, è quello. Abbiamo fatto quella regolazione poc'anzi quando eravamo soli, io e lui, e dunque abbiamo avuto tutto il tempo per fare questa regolazione. Cioè, all'infuori del fatto che appena che l'avevo attaccato c'era un abisso di amplificazione, eppure poi abbiamo incominciato, abbassa l'amplificazione, abbassa ancora questo, e ecco che siamo arrivati al compromesso quasi a mesi solo, dai. Sono sia mesi quei due microfoni. Vai Gianni! Ho capito. Diciamo che vabbè, era uno scherzo, cioè stavo scherzando, cioè, sul fatto di non pronunciarmi, è che oramai ho talmente le informazioni confuse che, cioè, non rischio solo di confondere ulteriormente le idee, e quindi preferisco estranearmi da questa cosa qua e la lascio fare a chi può dare suggerimenti migliori, quindi preferisco non stopparmi, non dare, perché magari corre il rischio di creare un po' più confusione e di non essere di aiuto, capito? Scusate che è portato qua e ho dovuto rispondere. Allora, com'è? Va bene. No, pensavo già cosa ti stanno mettendo in un discorso un po' caldo. No, non ci sei riuscito a trarre anche in inganno a Claudio. Non ci sei riuscito. No, sto scherzando, ci mancherebbe altro. No, Gianni, per quanto riguarda le tue idee, è chiaro che noi rispettiamo altrettanto, ci mancherebbe altro. Ragazzi, cioè, non è che uno debba per forza concordare con quello che diciamo noi. Se a te non ti piace, devi dire non ti piace. Se poi ti piace e basta, niente di più. No, quello è tutta un'altra storia. Ci mancherebbe. E bisogna rispettare sempre i pareri di chiunque, non ne abbiamo di queste remore qua, e soprattutto non abbiamo nessuna presunzione, no? Perché non siamo nessuno, nemmeno lui, se ci mancherebbe, anche se abbiamo oltre 45 anni, 47 anni per esattezza io di frequenza, per cui non ne abbiamo di queste presunzioni, ci mancherebbe. Se a uno piace, piace, se non piace accettiamo lo stesso il suo giudizio, ci mancherebbe altro. Va bene, dai, Claudio, ci sei? Sì, sono qua. Ok. Canta allora, dai. E canta, io già canti. Oramai è giunto l'ora di cantare con Rubiatto, fa poco. Sì, ma no, non ci cade le 3 di Giulio, tu mi conosci bene, ma che Tino? Se Tino vuole, è sempre la mia consulenza, perché io c'ho orecchio. La radio, soprattutto la radio, le modulazioni a me piacciono quando hanno un suono particolare, quindi sto molto attento. il 4 e il 5, io ho sempre detto sono degli ottimi microfoni, qualità prezzo, non solo per i baracchini ma anche per qualche HF di quelli di vecchia generazione, e vanno bene, vanno bene. Il 4 sta andando veramente molto bene con quei baracchini, un bel abbinamento. Il 5 a volte ci vuole il tono, a volte non ci vuole, però in linea di massima, anche se lo usa senza toni, Tino, avendo la modulazione molto grossa come la mia, riesce a spingere bene ad avere sia i bassi che gli alti, capito? Tutto lì. Tino forse si è allontanato per scaldare la graticola. Sì, beh, certo. Vabbè, comunque, Gianni, riattivati le WhatsApp, riattivati, io te ne avevo mandato ieri uno di messaggio su WhatsApp, e non l'hai ancora aperto, se voglio dire, e poi casomai te ne mando un altro a riguardo della canna da pesca, e così ce l'hai in memoria, ed è abbastanza tranquillo, è visibilissimo e soprattutto spiegato bene. Va bene, avanti già. Ehi, grazie, vabbè, insomma, ho qualche problema adesso con WhatsApp, quindi cioè, appena possibile cerchiamo di risolvere. Cosa stavo dicendo? Riguardo, vabbè, è a livello di scherzo, per carità, poi giustamente è chiaro che se mi chiede espressamente la mia opinione gliela posso dare tranquillamente, per carità, cioè adesso stavamo un po' ci stava un po' catteggiando, dai. Comunque riguardo a quello che posso dire io personalmente, troverei più giusto dire quello che il mio orecchio aggrada di più, cioè c'è un microfono che a me, adesso io mi ho messo la toppanata esterno, giusto per avere un ascolto diverso, il mio orecchio aggrada di più un microfono rispetto a un altro, cioè l'altro mi disturba, mi dà fastidio ascoltarlo, mentre un altro microfono è tra virgolette piacevole, sopportabile, si può ascoltare la conversazione, mentre l'altro mi dà fastidio, cioè capito, c'è una differenza tra il piacere il tollerabile e l'intollerabile, questa è la differenza che voglio fare io, c'è sempre una mia opinione è questa, quindi c'è un microfono che mi viene naturale ascoltare, che non mi disturba, e c'è invece un altro microfono che disturba, questa è la mia personale esperienza, ok? Sì Gianni, ma capisco benissimo questa situazione, perché è ovvio che sia così. Tu devi considerare però solo una cosa, che io e Claudio stiamo usando la stessa radio, per cui abbiamo la stessa ricezione, e allora è sicuramente molto differente da come puoi sentire tu, oppure un altro baracchino, non è detto che, ripeto, e poi ognuno di noi ha il suo orecchio, il suo modo di ascoltare, però è come i cantanti un po', no? È soggettivo sempre tutto questo, perché c'è un cantante che a me può piacere di più, magari a te non ti piace, per me è più bravo e per te mentre può essere più scarso, ecco come funziona, e così è anche il discorso della radio, per cui non ci sono problemi, ci mancherebbe, per quello che ho detto non è che abbiamo nessunissima presunzione di sapere più degli altri o più di te, per carità, assolutamente no, capita, il tuo giudizio vale quanto il nostro, ci mancherebbe altro. Avanti Claudio. Sì Giulio, ti ho mandato un messaggio, lo leggi, ce lo ascolti, scusa, attentamente, non mi dare nessuna risposta qua, rispondimi lo stesso su WhatsApp, che è una cosa che ti sto chiedendo io a livello personale, ok? Va bene. Sì Gianni, ma noi con Giulio è una vita che facciamo prove, provette, calcoli matematici e tutto, anche perché lui, nonostante sia un bravissimo falegname, ma è anche tecnicamente preparato, soprattutto in elettronica e in cavi, perché il suo lavoro era antennista prima di fare il falegname, quindi a me piace scambiare due idee, due opinioni, due cose così, capito? Perciò parliamo di tutto e di più, e la radio è fatta sia per fare prove, sia per parlare di tecnica sia per parlare di tutto. L'importante è che ci si capisca e che si giochi in maniera educata e regolare, perché poi quando i giochi diventano sporchi o troppo storpi non va bene neanche per chi sta ascoltando. Invece è bene chi ascolta, che rimane lì ad ascoltare, guarda, fanno questo, fanno quello, fanno quell'altro. Sempre nel massimo dell'educazione, capito già? Assolutamente, pienamente d'accordo con quello che hai detto. Sì, io praticamente a livello di cionfra, diciamo, adesso non mi esprimo, perché giustamente ho detto in questo momento ci sono persone che hanno molta più esperienza di me e hanno molte più competenze per dare, tra virgolette, un giudizio più completo ed esauriente. Quello che infatti Giulia ha detto una cosa abbastanza giusta, chiaramente stiamo parlando di soggettività, è soggettivo. Io infatti gli ho detto, non parlo di gusto, di piacere, parlo praticamente di suono che riesco ad ascoltare e di suono che mi disturba, cioè di due cose completamente diverse, no? Infatti ho detto semplicemente che c'è un microfono che tra virgolette è piacevole da ascoltare, va bene per fare un QSO, per me personalmente, e poi c'è un altro microfono che a me personalmente mi dà fastidio, mi irrita, cioè a livello proprio di ascolto mi dà fastidio. Questo è il reportage di quello che sono io qua al baracchino. Adesso ho messo anche una cassa esterna proprio per vedere la differenza tra la cassa incorporata nella radio, capisci? Quindi cioè, questa è la mia analisi. Poi niente, è giusto che sia così, ve l'ho detta. Certo è così. Io è dall'87 che modulo con questo tipo di radio, con questo tipo di voce, non cambio mai, faccio prove con altri microfoni da tavolo, però in linea di massima non cambia, perché la mia voce è sempre questa. Dammi un secondo, volevo leggere un messaggio, ti lascio un attimino con Giulio, vai Giulio. Scusate, ho avuto, non so se me l'avete sentito poc'anzi, che mi hanno chiamato per un intervento, quindi ho dovuto modulare la radio. Guarda, lei già un vado, lui è un Luis. La radio non ci freghi. E fai bene comunque. No Giulio, era una telefonata di lavoro e c'è stata un'urgenza, quindi dovevo rispondere per forza, sono dovuto andare fuori perché il telefono qua prende e non prende, capito? Quindi è così. Quindi, ritornando al discorso dei poc'anzi, avete messo in mezzo ai due fuochi a Gianni? No, perché ognuno di noi ha i suoi gusti, ci mancherebbe altro, ok Cristina, dunque, ma io glielo ho già spiegato che lui è padronissimo di dire il suo parere, ci mancherebbe, non tutti siamo uguali, ogni cosa è a riguardo della radio, a riguardo di quello che si sente, può essere soggettivo, uno può essere d'accordo o può anche non essere d'accordo, e se a me mi dice, perlomeno a me, sono sicuro che anche a te o a Claudio o chiunque altro gli dica no, a me non mi piace, non è che uno si sta offendendo per quello, ci mancherebbe altro. Ognuno ha le sue idee, le sue intenzioni e il suo modo di pensare, e dunque tanto di rispetto per chiunque, ci mancherebbe. Avanti Gianni. Eia, vabbè, adesso visto che Tino è rientrato dico quello che ha detto poco fa, adesso quando ho detto no comment era a livello così di cionfra, però giustamente ritengo che per avere praticamente dei report più affidabili, ho detto sicuramente è meglio sentire il parere di chi ha praticamente più esperienza e chi ha degli apparati insomma di un certo livello. Ciò non toglie che se dal punto di vista umano a me mi chiedono non cosa mi piace, cosa è più gradevole ascoltare, cioè non si tratta per me personalmente di piacere o meno, è cosa trovo più gradevole, cioè io trovo più gradevole un microfono e l'ascolto dell'altro mi dà fastidio, cioè non mi dà fastidio fare QSO con una modulazione del genere. cioè con una radio del genere, capisci? Quindi è ascoltare una conversazione di una certa qualità, sopportabile, udibile, e poi sentire un microfono con praticamente un audio completamente fastidioso, e ti viene in gana proprio di girare la radio, capisci? Giusto per farmi capire, questo è come il mio punto di osservazione. Niente a che dire a ciò che hai detto, anzi, sono d'accordo al 100% con te, tant'è vero che io purtroppo non potendomi sentire e non potendo giudicare la mia tipologia di modulazione, mi affido a voi giustamente, a prescindere da con cosa mi stai ascoltando o che radio hai, professionale o meno o non, capito? Io preferisco magari che dici no, per me che ti ascolto meglio con quella, perché magari, come hai detto tu stesso, non a piacere, ma a me ne frega che possa sentire una radio piacevole, non più forte o meno, capito? Sì, sì, noi sono d'accordo con te, ma infatti ho due sicuri, addirittura non si discutono, quindi giustamente poi spetta a me decidere, no, ma io voglio mettermi questo microfono, cazzo, perché l'ho pagato 80 euro, invece l'altro l'ho pagato 20 euro, e magari con quello 80 esci più male da quello di 20, hai capito dove sta il discorso? E quindi giustamente io sento tutti i pareri di tutte le persone e poi faccio una selezione di prove, magari che ne so, a Giulio e a Claudio piace questa tipologia di radio che sto magari utilizzando adesso, al contrario di altre persone che magari piace questo microfono più sedentario, tranquillo e pacifico, quindi tiro le basi e dico vabbè, utilizzo questo perché magari si abbina meglio la radio, capito? Quindi Gianni, io ascolto anche il tuo parere, per carità, perché poi, come si vuol dire, uno dal parere poi sta a chi lo riceve se ascoltare o meno, decidere o meno, capito? Se già fate già. Sì, in lui ci stai usando. Cosa? In lui ci stai usando adesso. Cosa sto usando? Come mi senti? Il Ruiz stai usando, Ruiz? No, sto usando il Lincoln, il President Lincoln con l'MD più 5 come l'avete tratto voi, tra virgolette, sempre per sottolineare a quello che era definito Gianni. Minchia, è fortissimo, molto molto forte, va bene. No, pensavo avessi stavi usando il Ruiz. No, il Ruiz lo faccio sentire sicuramente la radio più sedentaria e più tranquilla. Giustamente, come stavo dicendo già, se si vuole fare un questo tranquillo e questo da fastidio, io non faccio altro che commutare l'antenna e questa è la sua battaglia. Capito Gianni? KK, va bene. Ok, sì, già ci siamo capiti, no? Quindi non ho, già, cioè, voglio dire, ci siamo capiti l'un l'altro, quindi va bene così. Vabbè, piccola considerazione, che ovviamente sono sicuro che avete già, insomma, conoscete già. Vi faccio un piccolo paragone con, tanto sempre di audio si tratta, però stiamo parlando di alta fedeltà. Quando vabbè, sicuramente lo sapete già, però mi piace magari rispolverare certe conoscenze, certe nozioni. Quando praticamente remixano praticamente i brani in studio di registrazione con i multitrack, praticamente oltre ad avere svariate casse di diverse qualità monitor, hanno una coppia di casse monitor Yamaha, non so se l'avete mai viste, col cono bianco. Quelle riproducono il suono di un radio magia cassette, perché praticamente loro tengono in considerazione il suono, praticamente fanno una sorta di suono base, per cui, cioè, se suona bene in un magia nastri dovrebbe suonare bene anche in un impianto hi-fi, quindi praticamente fanno una equalizzazione, un master di massima, in modo che sia udibile sia con un magia nastri e sia su un impianto hi-fi. E quindi più o meno adesso, cercando di portare questo concetto anche a chi ascolta il CP, perché sicuramente c'è gente che ascolta magari CP, cioè che entra sulla 27 con un portatile, quindi con un altoparlante più piccolo, c'è gente che ha il base con una cassa più grande, c'è gente che ha le radio professionali che hanno una qualità migliore, c'è gente che ha i frullini con un altoparlante più piccolo, capito? Quindi se si riesce, come giustamente diceva Claudio, che la qualità della radio è, secondo me, l'ideale, cioè per, in primis, cioè riuscire a mantenere praticamente un buon suono in modo che un CP possa essere ascoltato in maniera gradevole da tutti. Questo è il mio pensiero. Sì, ma infatti già non l'ho messo in dubbio, per carità. Io ti ho anche chiesto e non ho ancora mai dato una risposta se questa, secondo il tuo parere, poi ti lancio il mic per suggerire, è una radio orecchiabile oppure magari ti fa fastidio perché tu hai una cassa tra virgolette più piccola di quella nostra, ecco, giusto per non stare a girarci intorno. Qua sì, la verità si dica, cioè il massimo deve essere possibile se io ti dicevo completamente in distorsione faccio fatica a capire quello che dici. Ecco, quindi io nei tuoi confronti sono molto amplificato, quindi va a rovinare l'audio, ho capito. Quindi adesso cambio per quanto sia un questo normale, tranquillo, anche se magari, che ne so, a Giulio o a Claudio piace questo tipo di microfono, per me non mi conta niente. Come ti ripeto, comutare l'antenna e cambiare radio. Sì, noi stiamo ricevendo 440, io ho un secolo in esterna, quindi l'amplificazione è fortissima, però a me non dà fastidio perché sono abituato, ma lui sta ricevendo con un baracchino vecchio, è chiaro che l'audio non è come quello del mio e di Giulio, e quindi il rimbombo oppure le gracchia oppure le va in distorsione, capito? Metti l'altra che è più leggera, questa è fortissima. Adesso ti cambio la tipologia di modulazione, poi magari vedrai se ti dà fastidio o meno anche questa, se no cambio ancora e metto un'altra più tranquilla. Tino, questa è perfetta, cioè riesco a capire quello che dici, cioè le parole è udibile e comprensibile, quella di prima, credimi, cioè siamo anche vicino a te. Guardi, un audio e mandartelo ti farei capire, cioè e lì alle conce sono io, cioè praticamente non si comprende nulla, ho fatto difficoltà veramente a capire quello che dicevi, capito? Adesso è nettamente nettamente meglio, capisci? Mi state chiedendo il mio punto di vista, ve lo sto dando in maniera onesta e trasparente al 100%. Caspita, ma io lo accetto, per carità, ci mancherebbe altro, ma infatti siccome non stiamo facendo battaglie come un tempo si utilizza, noi allora tu devi tener conto che la mia stazione, la stazione di Claudio, non ricordo la stazione di Giulio perché però è sempre stato fortissimo anche lui, come radio ha sempre avuto radio HF, però erano delle stazioni che ai suoi tempi andavano a, tra virgolette dico, disturbare le piccole stazioni, perché si era creato, allora poi mi correggerai anche tu Claudio se sbaglio, un canale dove i forti, chiamiamoli così, si ritrovavano tutti in quel canale lì, e quindi i piccoli, anche se, perché c'erano tantissimi, credimi, io ero alla croce e non vedevo altro che antenne crescere come i funghi, quindi c'era un canale dove si erano riuniti praticamente, chiamiamoli forti, e quelli piccoli erano mezzo costretti, sempre sottolineo mezzo costretti, a entrare nel canale dove eravamo noi, perché tra loro non riuscivano a comunicare, hai capito? Quindi a me sinceramente è rimasta un pochino l'era dell'amplificazione, della potenza, di andare più lontano possibile, sempre naturalmente cercando di essere comprensibile al 100, però avere anche delle radio per poter fare questo tranquillo e pacifico con gli altri. Ecco, questo per farti capire come la vedo io, Giulio. Sì, questo è vero, in effetti era così, a quei tempi diciamo che veniva considerato di più di un altro, magari quello che aveva una stazione più performante, che aveva modo di farsi sentire alla grande senza creare problemi d'ascolto ad altri magari, però quelli che avevano magari un baracchino, che so io, anche di quattro soldi rispetto a quello che magari ce l'aveva ce l'aveva un po' più performante, c'era differenza, e non c'era solo quello, anche perché allora esistevano i lineari, esistevano, e poi c'erano le competizioni, e devo dire che allora in quel periodo, a parte il caos che c'era, perché c'era tantissimo caos, questo lo dobbiamo riconoscere, anzi sappiamo benissimo tutti quanti che c'era, per cui non c'è bisogno di riconoscere niente, nessuno. Prima si faceva queste sfide a chi andava più lontano, a chi arrivava con la radio più buona, più bella, erano tutte storie che tutto sommato piacevano anche. Poi naturalmente c'erano le persone scorrette, che quelli allora incominciavano a mettere lineari anche da 5, 6, 700, 800 watt, e magari qualcuno anche con qualche direttiva, e disturbava la grande, e qualcuno chiudeva il traffico, il Cimino chiudeva a Sassari, tipo, tanto per fare un nome così a caso, o Pino Forte Braccio, per carità, quando chi c'aveva la bottante con 800 watt non ne parliamo, battimento per tutti, avanti Claudio. Claudio è andato a Bocca a portare il cane. Quindi già, questa era la stazione che avevo io in primis, la mia prima stazione, poi ho questo macchino normale, parlo con un Q5, e niente, magari con un amplificatore staccato, adesso sono staccato giusto per non fargli a sottolineare. Comunque, questa era una delle stazioni che allora si utilizzava. Però a prendere e colpi, questa ne prende quanto ne vuoi, cioè se io dalla croce, se c'è uno che modula, io sto qua me lo abbatte, perché effettivamente non ha né filtri né niente, però è una radio che magari spinge, e spingendo dava fastidio a chi magari mi faceva gli splatter a me, quindi questo usava un detto, che gli splatter e chi ci riesce li tiene, sono come due muri, bla bla bla bla e così via, hai capito? Questo è per farti sentire l'altra tipologia di radio che si utilizzava allora. Perdonate un secondo che io mi devo lasciare, che è pronta la cena, vai. Ciao Giulio, ciao Gianni, ciao Tino, ci aggiorniamo domani, eccetera eccetera, va bene, e ne abbiamo fatto battaglia, io quanto siamo divertiti. Ciao a tutti, il cambio mi pare spetti a Giulio, ascolti finali, chiudo perché è pronta la cena, ciao a tutti. Sì, qua, e anch'io chiudo, dai, oggi abbiamo esagerato con i tempi, magari mia moglie mi sta anche restando giù in cucina, sono meno per meno 4 quasi, meno 17 per l'esattezza, dai, ci sentiamo, ciao qua, grazie per la chiacchierata, a domani, dai. Ti saluto Tino, grazie a te per la chiacchierata, a domani se ce la fai anche prova li facciamo, non ci sono problemi. E saluto Gianni, ciao Gianni, alla grande, dai, non ti preoccupare che ti ascoltiamo benissimo ugualmente, perciò poi il discorso bello o brutto, tra virgolette, che quello che si fa in frequenza a riguardo delle radio o dei segnali, va sempre bene, quello che conta è sentirci, ascoltare e fare quattro chiacchiere. Riprendi Gianni, ascolta finalino tuo e anche quello di Tino, dopodiché chiudo, vai. Ok, sì, va bene. Vabbè, salutoni a tutti, buona cena Claudio, ci aggiorniamo, vabbè, il mio telefono è acceso per qualsiasi novità, quindi buona cena, buon proseguimento, a te, buonasera, cioè, ben sentito e buona cena anche a te Giulio. Tino, mi sa che anche io mi unisco alla ruota, vabbè, ancora qualche passaggio lo faccio, giusto perché, insomma, per chiudere un attimino anche il discorso che avevamo iniziato, ok? Ecco, dai, va bene, ciao Claudio, buona carica, ciao anche te Giulio, ci si riascolta alle prossime, buon fine serata, buon tutto, buonanotte. Niente, ti ripeto, questa era la radio che si utilizzava in quei tempi. Era prepotente, era forte e dava un fastidio uno con l'altro, però chi non aveva la possibilità di parlare con determinate radio, magari così, un pochino, tra virgolette, prepotenti, parlo di amplificazione, allora era, non dico sottomesso, ma era lì lì che doveva solo ascoltare, capito? Sì, Tino, mi ricordo l'ultimo periodo che avevo la, che avevo il baracchino, mi ricordo, perché poi ha giumulato tutto, mi ricordo che sì, poi il caos era diventato insopportabile, poi giustamente una volta uscito fuori non so come sia andato a finire, ma già all'epoca, come stavi giustamente dicendo tu, mi ricordo che cioè, non si poteva dire neanche fa, portanti, splatter, insulti, cioè, gente insomma che nudrumia compreso, ti tirava la direttiva, cioè, praticamente in quel canale praticamente non riusciva più a parlare nessuno, senza contare tutti i vari splatter e disturbi, insomma. Sì, un pezzo, non conosco tutta la storia di quel grande bordello, comunque un po' l'ho vissuta quella situazione del bordello, quindi mi ricordo di quel casino che c'era nella 27, quindi poi mi sono rotto le palle, ho venduto tutto e ciccia. E niente, quindi sì, capisco, sono assolutamente concorde con te col fatto che insomma c'era quel tipo di tecnologia, c'era quella possibilità, c'era quel tipo di radio che ogni CB aveva, poi chiaramente c'erano stazioni di vari livelli, con varie potenze e soprattutto con vari modi di modulare, insomma, perché giustamente c'era la gente corretta e poi c'erano gli stravaganti, e quindi sì, d'accordissimo con te. E niente, adesso al di là di, come stavo dicendo a Giulio, volevo essere assolutamente chiaro e onesto per come percepito io le fasi di questi esperimenti, cioè della serie dei microfoni. Io ho detto, ho fatto la cronaca della testuale insomma verità, perché insomma alcune cose con un microfono sentivo e le altre con l'altro assolutamente no, cioè con quello che ho in questo momento a livello di radio è praticamente la realtà è questa, con uno riesco a fare equazione, con l'altro assolutamente no, capito? Sì, ho capito benissimo da quando l'hai detto, infatti sono d'accordo con te. Ti ripeto, giustamente tu mi stai ascoltando con la tipologia del radio, quindi rispetto anche al tuo ascolto, per carità, perché anche a me molte volte quando c'è stata una modulazione troppo amplificata, troppo prepotente, nel senso sempre con la timbrica, facevo fatica a capire, magari volevo fare anche un corso, facevo fatica a capire cosa stavo dicendo, che dicevo, ma sono timido, non riesco a capirti, quindi capisco cosa mi stai dicendo, ecco perché io voglio giustamente fare un corso tranquillo e mettere una radio dove uno riesce a capire ciò che si dice. In quanto invece, ritornando al discorso dell'altro apparato, volevo semplicemente utilizzare un microfono che avevo lì staccato più che altro, e metterlo con questa radio in maniera tale che potevo utilizzarlo e non lasciarlo magari per i fatti suoi, capito? Quindi il problema, cerco di fare così, modifiche idrovidato, ma giusto per addirittura ho smontato anche il coperchio, ho abbassato il watt, perché questa era una radio che mi dava 40-50 watt, ma andava in saturazione, quindi ho detto cosa me ne faccio 50 e 40 watt se poi non li posso utilizzare, ne uso 10, però li uso bene, li uso tutti, capito? Va bene, già, abbiamo raggiunto lo scopo del discorso, abbiamo capito ciò che era in ballo, diciamo, quindi ti ho capito perfettamente. A me mi fa piacere che hai esposto anche la tua idea ed è giusto così, ecco. Sì, infatti ti ripeto, come ho detto poc'anzi, cioè ho fatto una netta distinzione tra quello che mi piace a livello di suono di radio e a quello che è gradevole e sgradevole. Cioè, infatti ti ho spiegato anche a te la differenza, qua non si tratta di piacere o non piacere, qua si tratta di gradevole e sgradevole, che è un altro piano, capisci? Cioè è una cosa completamente diversa. Poi riguardo, è come, cioè per dire, giustamente Claudio, per dire, faccio un esempio, ha a quel modo di modulare. Giulio c'ha il suo personale, Massimiliano uguale, Marco Condor, capito? Però cioè, ognuno ha la sua timbrica, la sua radio, che e tutte quante risultano udibili, comprensibili, non danno fastidio, ok? Poi ce ne sono alcune che magari sono esageratamente forti e quelli diventano sgradevoli, capisci? Cioè, questa è la tendo a sottolineare sempre questo passaggio qua. Non è una questione di piacere o meno, è gradevole o sgradevole, ok? Capo della partita, va bene, là, questa cosa va bene, sì, per fare questo locale va più che bene, non è troppo complicato. Infatti così, cioè personalmente come adesso come sta arrivando qua, cioè è di lusso, è 10 proprio, 10 all'ora, cioè ti ripeto, poi giustamente avrai, insomma, poi sarai tu a scegliere il momento opportuno legando piazza a te, cioè se devi attaccare il fornellino e se devi usare una modulazione più aperta, più grossa, insomma, quello giustamente lo decidi tu cosa fare. Io ti ripeto, volevi esattamente la mia opinione e io te l'ho data, quindi sono assolutamente tranquillo con me stesso, anche tra giudizio la verità, e quindi assolutamente al 100%, ok? Ma figurati dai, e questo è sgradevole? Questo, cioè, così va bene, sì, la radio che, insomma, questa è la radio che piace a me, tra virgolette, ok? Lo so, ogni tanto questa cosa bisogna farla andare, anche questa, è perché mi sto giocando con questi piccoli adesso, è grande, li sto lasciando un po' in parcheggio, va bene, dai. Ne approfitto che ormai che anche io adesso vado, faccio qualche cosetta prima di andare a nanna, prepariamo qualcosina da mangiare. Beh, mi ha fatto piacere, così almeno so anche il tuo parere, quindi mi comporterò di conseguenza. Ok, ci sentiamo, buon fine serata, buon tutto, ci si riascolta le prossimine, ciao già, buona serata. Grazie a te, sì, cioè, no, non c'è problema, cioè, grazie a te per avermi chiesto il parere e io te l'ho dato cercando di essere più esplicito possibile, dai, ok, quindi ricambio, buon proseguimento di serata a te, buona cena eventualmente, buone riparazioni e buon tutto e ci si aggiorna a più presto, ok, buona serata, ciao ciao. Ciao, ciao.